Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Sto indagando su delle modifiche eseguite su due unità. Una macchina che modifica se stessa è un concetto molto complesso. Per favore, signore. Mi fissava. Le ho sparato perché sembrava vivo. Sai che succede quando si automodificano? Due di loro cercano di modificarne un terzo. Poi il miracolo sparisce e ha inizio l'epidemia. Buongiorno, avete appena sentito una clip tratta da Automata, un film del 2014 con Antonio Banderas che parla di robot. Come sempre a Hollywood lo scenario è apocalittico, ci sono robot che si ribellano, c'è un'umanità a tinte fosche. Però in questo film c'è qualche intuizione su come potranno essere i robot del futuro a medio termine. E cioè, robot che si autoriparano, robot che imparano, robot che costruiscono altri robot. Nelle fabbriche prima o poi arriveremo a questo, anche perché già oggi e in futuro molto di più ci sarà l'interconnessione fra robot, tant'è che il concetto di IoT, Internet of Things, si fonde poi con la robotica. Di tutti questi temi ne parliamo oggi con Matteo Marini, che è il presidente della ABB Italia, un colosso nell'automazione industriale, nella robotica, nella fornitura di sistemi di energia e in tutto quello che è fabbrica avanzata, fabbrica intelligente. Io direi che al mondo in questo settore ci sono quattro colossi: Siemens, Bosch, General Electric e ABB. In particolare ABB è tra i leader mondiali nella fornitura di robot industriali e oggi Matteo Marini ci parlerà di che cosa sono, a cosa servono e come si usano in fabbrica e come la fabbrica diventerà più intelligente, efficiente e, lui dice, anche non distruttrice di posti di lavoro grazie alla robotica avanzata. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, come sono questi robot industriali che ci sono già e che arriveranno ancora più raffinati dal punto di vista tecnologico? Beh, devo dire che il clip iniziale era abbastanza spaventoso, vero, ma non troppo vicino, credo, alla realtà. E i robot di cui ci occupiamo sono fondamentalmente robot che devono aumentare la produttività in azienda. La cosa più vicina che stiamo sviluppando, per restare in tema con la clip, sono i robot collaborativi. Ossia dei robot che non hanno una grande capacità di sollevare pesi o spostare oggetti particolarmente voluminosi o pesanti, ma si pongono in linea di fianco all'operatore umano per con lui collaborare nella esecuzione di compiti relativamente semplici ma di grandissima precisione. Tipo sugli occhiali. Esatto, c'è un'azienda. Avvitare la stanghetta degli occhiali. Esattamente, oppure saldare un microprocessore, una motherboard. Questo è secondo noi molto importante perché rappresenta un modo, un affiancamento piuttosto che una sostituzione. Ecco, il vostro robot collaborativo si chiama Yumi, che vorrebbe dire You and Me. Quindi sta a fianco dell'operaio. Esatto. Però non è che poi lo accoppa per prendere il posto. No, abbiamo fatto vari test, l'ultimissimo con la cancelliera tedesca che ha infilato le sue preziose dita tra gli zampini del nostro Yumi e Yumi si è correttamente fermato, essendo programmato per essere non interferente. Quindi questi sono gli ultimi sviluppi. Io non credo nel breve giungeremo a un altro Yumi che soccorre il primo Yumi che ha lanciato nel cloud un segnale di allarme di malfunzionamento. Credo che l'elemento umano, almeno nella nostra visione del futuro, rimanga imprescindibile. Ecco, voi avete la caratteristica di avere sia le fabbriche vostre con le quali producete i prodotti che vendete ai clienti. Ricordo che ABB si occupa anche di elettrificazione, di interruttori, di automazione di processi, di motori e generatori, di convertitori di frequenza e anche di robot che vanno fabbricati. Quindi ci sono sia le vostre fabbriche e sia i servizi di consulenza e di assistenza che proponete ai clienti prendendo anche spunto da quello che avete verificato durante il vostro lavoro in fabbrica, no? È così. Nella nostra filosofia C'è una semplicità quasi disarmante. Prima di provare a vendere a un mio cliente, voglio provarlo sulla mia stessa pelle, nelle mie stesse fabbriche. Quindi tutti i sistemi di automazione avanzata, che possono essere basati su una tradizionale PLC piuttosto che su appunto un aspetto robotizzato, vengono prima provati e applicati alle nostre fabbriche. Citerei Dalmine e Frosinone, una delle nostre 13. Ecco, poi arriviamo a parlarne. Sì, sono 13 grandi fabbriche in Italia. Una volta verificato che questo effettivamente funziona, a quel punto abbiamo un team di specialisti, di consulenti, che visitano la fabbrica del nostro potenziale cliente e danno alcuni suggerimenti, tipicamente scalabili. Noi non crediamo in un passaggio to cure da una fabbrica tradizionale a una 4.0. Credo che vadano scelti 3 o 4 ambiti diciamo di grande importanza e di impatto, e poi scalabilmente si possa proseguire passo per passo verso una piena sviluppo del concetto. Ecco, ABB è un colosso mondiale. In Italia c'ha 13 sedi, 2,4 miliardi di fatturato, 6.000 dipendenti. Nel mondo 35 miliardi di fatturato, 135.000 dipendenti. Comunque, per avere un'idea di che cosa si tratta, ascoltate qua. ABB, acronimo di ASEA Brown Boveri, è tra i leader mondiali nei settori dell'energia e dell'automazione. Produce 300.000 robot all'anno ed è all'avanguardia nell'Industry 4.0 e nell'IoT, con un suo approccio che ha definito IoTSP, acronimo di Internet of Things, Technology and People. Robotica, automazione e Industry 4.0 vengono prima sperimentate all'interno degli stabilimenti ABB e poi proposte con pacchetti di prodotti e servizi alle aziende clienti. ABB impiega 135.000 dipendenti, 8.000 dei quali sono ricercatori, è presente in oltre 100 paesi e ha un giro d'affari di circa 35 miliardi di euro. L'Italia è una delle sue country principali, con 2,43 miliardi di giro d'affari, 13 sedi e 6.000 dipendenti. Il 67% del fatturato italiano è generato dall'esportazione. Gli stabilimenti italiani più importanti sono 3: Santa Palomba, Dalmine e Frosinone. Santa Palomba, in provincia di Roma, fabbrica interruttori ed è considerato un centro di eccellenza per l'automazione industriale. A Dalmine, in provincia di Bergamo, vengono prodotti interruttori, contatori, selezionatori e quadri per la distribuzione primaria e secondaria. È considerata un centro di eccellenza per la Lean Production. A Frosinone, invece, vengono fabbricati interruttori automatici scatolati e aperti di bassa tensione. È un centro di eccellenza per la robotica, che negli anni ha permesso di raddoppiare la produzione mantenendo inalterato il numero dei dipendenti. ABB, che ha sede a Zurigo, è nata nel 1988 dalla fusione di due importanti realtà industriali europee: la svedese ASEA, fondata nel 1883, e la svizzera Brown Boveri & Say, fondata nel 1891. Quest'ultima era già capofila nell'industria meccanica italo-elvetica, avendo acquisito nel 1903 il tecnomasio italiano Brown Boveri, TIBB, la più antica società elettromeccanica italiana, creata nel 1863. Il gruppo è quotato presso le borse di Zurigo, Stoccolma e New York. La metà degli azionisti di ABB risiede in Svezia. La quota maggioritaria in azienda è detenuta dalla società di investimento svedese Investor AB, controllata dalla famiglia Wallenberg, che detiene il 9,5%. Il gruppo, comunque, è estremamente cosmopolita e internazionalizzato, tanto che l'amministratore delegato è il tedesco Ulrich Spieshofer. Molto forte è anche la presenza di azionisti e dirigenti di origine americana. In Italia la società è guidata dal presidente Matteo Marini e dall'amministratore delegato Mario Corsi. Rieccoci in linea con Matteo Marini, che è il presidente di ABB in Italia. Sul Internet of Things, questa azienda si è data un paradigma che si chiama IoTCP, Internet of Things Service and People, che sarebbe la loro chiave di lettura dell'Internet of Things. Prima di chiedergli di che cosa si tratta, va premesso che loro offrono ai loro clienti dei sistemi chiavi in mano per l'Internet of Things, quindi vanno nella fabbrica X e gli dicono: ti diamo l'Internet of Things con il sistema informatico, i supporti di hardware e anche il servizio. Però ci spieghi lei, in breve ed arrivando molto rapidamente al punto, che cos'è questo paradigma e che cosa significa? L'aggiunta di services e people sta a esemplificare fondamentalmente il campo di applicazione e le sfide che gli stanno di fronte a noi. Il fatto che dall'utilizzo di una sensoristica a basso costo, dall'utilizzo di un cloud efficiente con il quale abbiamo raggiunto recentemente un accordo con Microsoft, ci permette di poter offrire la virtualizzazione degli elementi fisici in fabbrica nel cloud. Questo cosa offre? La possibilità di gestire una flotta di trasformatori, motori, interruttori, offrendo quindi dei services, dei servizi di manutenzione o di allarme o gestione da remoto ai nostri clienti. E fino a qui, le assicuro, è una cosa abbastanza comune oggi nel mondo dell'IoT. La seconda sfida è la parte di people. Per noi people rimangono un elemento fondamentale e stanno a significare anche un certo gap di quelle che sono effettivamente le qualità, le skills, le competenze necessarie per gestire questo tipo di sistema. Quindi la sfida che noi ribaltiamo è noi al nostro interno abbiamo una serie di webinar che vanno a coprire tutti i nostri dipendenti. Abbiamo già fatto 4 webinar interni con 1000. Cosa sono i webinar, scusi? Webinar sono delle possibilità di, diciamo, di training da remoto via computer gestiti insieme al Politecnico di Milano per poter insegnare a tutti i nostri dipendenti, siano white che blue collars, che cosa vuol dire Internet of Things e quali sono le possibilità per il nostro gruppo sul mercato. Di conseguenza questo ci permette di coprire veramente dal primo all'ultimo impiegato. Le dico, su 6.000 in 2 webinar abbiamo fatto 1.500 persone. Ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con... Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, abbiamo come ospite Matteo Marini, presidente di ABB, e parliamo di fabbrica del futuro. Allora, ABB prima testa nei propri stabilimenti sistemi di robotica avanzata, sistemi di IoT e poi li applica anche ai clienti. Ora, voi avete uno stabilimento a Frosinone si occupa di produrre interruttori automatici in scatola, una roba che non è che sia il massimo della raffinatezza tecnologica. Però la cosa interessante è come vengono prodotti, l'efficienza con la quale vengono realizzati anche grazie ai robot. Ce la racconta? Senz'altro. Gli interruttori che produce Frosinone sono diventati qualcosa di raffinato tecnicamente anche nel loro essere interruttori. Hanno una serie di componenti elettroniche che gli permettono di fare praticamente l'IoT da soli. Quindi non volevo sminuire la produzione, ma è vero, l'interessante della fabbrica di Frosinone è il fatto che dal 69, quando è stata creata, abbiamo progressivamente investito nella robotica. Abbiamo oggi qualcosa come 40 robot che fanno tutte le varie fasi di produzione, dalla brasatura, la saldatura, il packaging. Permettono un passaggio fondamentale in termini di produttività. Vi do soltanto... Cioè la produzione più che raddoppiata senza aumentare il numero di dipendenti, giusto? È così. Nel 2000 quel stabilimento faceva circa 1 milione di interruttori. Nel 2012 ne ha fatti 2,5 milioni di quel tipo di interruttori e in più siamo riusciti ad affiancarci un'ulteriore gamma, si chiamano interruttori aperti, e ne facciamo circa 75.000. Quindi la logica e il vantaggio di una spinta forte sulla robotizzazione è che permette di ridurre i tempi di setup. Se devo cambiare una produzione è molto più facile farlo con un robot che invece cambiare i binari delle linee a scorrimento, e ha permesso un aumento della produttività spaventoso, perché giustamente i robot non si riposano, lavorano a getto continuo su 24 ore su 24. Pensi che mi dicono che hanno già creato un robot giornalista con l'intelligenza artificiale che permette di fare alcuni lavori, tipo mettere insieme le agenzie e da mettere insieme le agenzie confezionare un servizio e anche leggerlo con una voce che sembra umana, quindi dobbiamo preoccuparci. Però viene da fare una riflessione sulla produttività. Perché tante volte sembra che la produttività dipenda dal costo del lavoro, dipenda dal fatto che i dipendenti sono pagati troppo e non se ne può più di sentire questo. La produttività dipende soprattutto dagli investimenti in tecnologia e dalla formazione dei dipendenti, oltre che dal loro grado di motivazione. Questa è una mia opinione veramente senza alcun tentennamento, ma volevo, visto che lei si occupa di queste cose, volevo confrontarmi con lei su questo. Sono d'accordo al 100%. Chi utilizza la leva del basso costo del lavoro come leva competitiva non ha vita lunga. È un vantaggio vero, ma è un vantaggio veramente molto limitato nel tempo. Se noi guardiamo per esempio i dati italiani, nel 2009 dopo la crisi è crollato il fatturato ed è crollato il valore aggiunto della produzione delle imprese manifatturiere italiane. Dopo 4 anni il fatturato era tornato più o meno agli stessi livelli, il valore della produzione no, c'è circa un gap del 20%. Questo 20% molto banalmente è stato portato in paesi dove la manodopera costa meno, siano essi paesi dell'Europa dell'Est o anche più lontano. L'Internet 4.0 rappresenta per l'industria italiana un'occasione unica per poter far leva su quello che è veramente il vantaggio competitivo, ovvero sia un costo del capitale che è praticamente negativo o è molto basso. Quindi la possibilità di lanciare, formare, creare linee altamente automatizzate o robotizzate ci permetterà di recuperare quel gap di produttività. Perfetto. Perché il dramma è che in questo paese da anni la produttività non cresce. È vero. Ma perché? Non cresce perché rimaniamo fermi sui vecchi paradigmi, rimaniamo fermi a una logica della difesa nel breve dei propri diritti, senza pensare che forse sacrificando un po' di questi diritti oggi e investendo in formazione, investendo in automazione e in nuovi processi di business, forse nel medio periodo si può arrivare. Prendo l'esempio della Germania di Schröder, primi anni 2000, grandi sacrifici, specie sulla parte della forza lavoro, adesso la Germania dov'è? Io credo che sia un'occasione da non perdere. Il recente piano 4.0 presentato dal ministro Calenda, secondo me, dà la possibilità, differentemente dalla Germania, che ha un approccio invece molto verticale, orizzontalmente dà la possibilità, in vero, fondamentalmente con leve di tipo fiscale, a tutte le aziende medie e piccole italiane di poter avere accesso a questi trattamenti privilegiati. Sì, però guardi, non bastano le leve di tipo fiscale, perché se guarda i grandi stati che sono competitivi sulla manifattura, gli Stati Uniti, la Germania e anche in misura minore la Francia, ci sono dei veri e propri investimenti in quattrini, in soldi veri, e soprattutto gli stati fanno una politica industriale che si basa su due leve: uno, la conoscenza, con investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema pubblico che poi vengono messi a disposizione delle aziende. L'altro, la parte finanziaria, con tutta una forma di sostegno finanziario. E poi c'è un'altra cosa che è il coordinamento. Le imprese non vengono lasciate da sole. Viene creata una regia per fare in modo che certi programmi vengano prodotti, vengano perseguiti insieme e che ci siano politiche industriali anche a livello territoriale. La logica della cabina di regia della 4.0 esattamente colma quest'ultimo punto che ha appena citato. È chiaro che se uno pensa che lo Stato tedesco del Baden-Württemberg investe in ricerca e sviluppo come l'intera Italia, o poco meno, appunto, le dà una dimensione del gap che ci serve diciamo, da colmare. Qualcuno mi disse c'è una rivoluzione mondiale, questi qua hanno fatto la robina. No, io credo che onestamente più di così, con le risorse a nostra disposizione, con tutti i vincoli di bilancio decisi in sede europea, più di così non si potesse fare. Credo che sia un piano coraggioso che lascia però fondamentalmente la palla nelle mani dell'imprenditore, del titolare della piccola e media impresa. Se è coraggioso e ha voglia di rischiare, ha oggi parzialmente gli strumenti per poter rischiare e di fare quel salto di quel treno del 4.0 che sta passando. Certamente. Senta, Lei è anche capo di una delle quattro divisioni di ABB in Italia. Poi per aziende come la vostra sono le divisioni quelle che contano davvero. Poi presidente è quasi un legale rappresentante, poi ci sono queste quattro che sono aziende nell'azienda. E la sua divisione sono le Power Grids, sistemi e soluzioni per l'energia lungo la catena di produzione e distribuzione. Il nostro paese, dal punto di vista della produzione energetica, della sua distribuzione, è fra i più arretrati nel mondo. In più abbiamo un costo dell'energia altissimo e lei si trova, nella sua attività di capo di un'azienda nell'azienda, a confrontarsi con tutto questo. Insomma, un po' frustrante? Sfidante lo chiamerei. È chiaro che anche i nostri clienti principali, che tipicamente sono le utility o le imprese che fanno infrastrutture e trasporti, si trovano loro stesse a un bivio. La vecchia, diciamo, mercato classico della utility, gerarchico, quindi generazione, trasmissione, distribuzione, non esiste più. Negli anni scorsi si parlava di smart grids, si sta fondamentalmente a dire che la generazione stessa è talmente frammentata e sparsa sul territorio che non permette più una gestione gerarchica come in passato. Tutto questo si risolve attraverso sistemi intelligenti di gestione, quindi software. E grazie al cielo noi possiamo vantare una discreta referenza e capacità in questo senso. È proprio l'elemento differenziale della mia divisione rispetto alle altre. Noi ci occupiamo di gestire in maniera intelligente le reti, dalla quella di casa, quindi da una domotica avanzata, fino a quella dell'operatore della rete di trasmissione italiana, in maniera integrata, utilizzando gli stessi protocolli, gli stessi linguaggi. Ecco, purtroppo dobbiamo chiudere, ma i nostri ascoltatori potranno ritrovarsi con noi domani, domenica, alle 13:10. Io intanto saluto Matteo Marini, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. E saluto gli ascoltatori, mi raccomando, domani, ore 13:10, non potete mancare.